Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, viviamo in un'epoca dominata dai luoghi comuni e questo naturalmente favorisce un certo conformismo del pensiero, una omologazione a quello che non soltanto pensiamo ma anche diciamo. Ma è proprio vero che i luoghi comuni siano una fonte così negativa per tutti noi? E di questo parla il libro che adesso vi presento, di Umberto Broccoli, che è un archeologo e scrittore, che ha scritto appunto Luoghi comuni, da Catullo e Battisti, Il gioco eterno delle passioni, pubblicato da Rizzoli, 414 pagine, 19,90 euro. Anche Broccoli, per la verità, la pensava malissimo sui luoghi comuni che, scrive lui stesso, crescono rigogliosi nelle piantagioni della superficialità diffuse. Anzi, addirittura, molti di questi luoghi comuni gli davano il malessere fisico, soprattutto quando sentiva frasi che egli qui cita. Bisognerebbe incoraggiare l'agricoltura anche se mancano le braccia, perché la gente di campagna è sempre migliore di quella di città. L'epoca in cui viviamo è un'epoca di transizione, l'epoca in cui viviamo è un'epoca di grandi cambiamenti, l'epoca in cui viviamo è un'epoca di crisi, eccetera, eccetera. Ma pian piano Broccoli ha cambiato idea. E di qui l'idea di questo libro, che raggruppa intorno a alcune passioni, che sono esattamente l'odio, il tradimento, la follia, la felicità, l'amicizia, l'amore, la nostalgia. Poi c'è un capitolo dedicato alla notte. Intorno a queste passioni costruisce delle riflessioni che hanno come punti di riferimento la cultura classica e alcuni esponenti della canzone contemporanea, da Battiato, che apre il libro con qualche sua riga, Baglioni che lo conclude osservando il cantautore romano come, per ricorrere ad un altro luogo comune linguistico, Broccoli non voglia sdoganare i luoghi comuni, ma ci inviti a cercare le verità che si nascondono dietro e talvolta dentro quelle formule. E allora su questo sentiamo l'autore. Buonasera a Umberto Broccoli. Buonasera a voi, buonasera Radio 24, a tutti gli ascoltatori, buonasera. Umberto Broccoli, questo libro si deve considerare una sorta di rivalutazione del luogo comune? In fondo lei ci spiega che l'ha cominciato avendo un forte pregiudizio, del resto credo molto condiviso, contro i luoghi comuni, poi ha scoperto che in fondo certi postulati, scrive lei stesso, appartengono a una specie di sapienza innata, molto popolare, molto semplice negli assunti, ma altrettanto trasversale. Dunque c'è stato un cambio di rotta nello scrivere il libro? Finalmente una persona che ha fotografato esattamente quello che volevo dire. Complimenti, sì, è così. Anni fa, in realtà, ero addirittura, quando facevamo con Claudio Ferretti una trasmissione su Rai 3 che si chiamava Tele Sogni, prendevamo in giro i luoghi comuni, scherzavamo sulle mezze stagioni, spesso ci venivano a trovare il trio Marchesini, Lopez, Solenghi, e scherzavamo su questo. In realtà il luogo comune a volte è sapienza innata, perché ci si innamora tutti nella stessa maniera, si scherza nella stessa maniera, si ride a qualsiasi latitudine del globo. È rassicurante, secondo me, scoprire, non so, che anche Neruda, così come Catullo, avevano il rimpianto delle buone cose di una volta. Questo non può essere preso come postulato, per carità, non è che tutte le cose di un tempo sono migliori di quelle di oggi, perché oltretutto non è nemmeno vero. Però, insomma, in fine conti c'è questo sguardo all'indietro che ci può aiutare ad andare meglio avanti, questo sì. E chi o che cosa l'ha aiutata ad aprire gli occhi sui luoghi comuni? È questa coincidenza incredibile di persone che in varie epoche, vari momenti della storia, senza ovviamente conoscersi, perché non a caso ho citato, che ne so, Erodoto e Ermanesse, più o meno dicono tutte le stesse cose. Quando si tratta, non so, di descrivere un paesaggio, quando si tratta di parlare della ferita che può dare un tradimento, quando si parla dell'entusiasmo che una persona vive quando si trova di fronte a una storia d'amore, allo stato nascente, soprattutto nelle passioni, tutto questo, tutti quanti siamo abbastanza simili, lei ed io, lei, io e i nostri ascoltatori, specialmente su come si vive una passione o su come la si subisce, per esempio. Quindi questo mi ha portato a pensare che effettivamente i furori di un'età molto più giovanile, perché quando facevamo queste cose, quando scrivevo contro i luoghi comuni, insomma gli anni erano molto di meno, insomma adesso sono abbastanza di più, e quindi, come dire, uno riflette sul fatto che, senza guardare al passato con nostalgia romantica, dicendo mamma mia quanto si stava meglio, quando si stava peggio, no, questo però ci può aiutare a vedere che certi tratti di similitudine possono anche spianare una strada per un futuro fatto anche di speranza, insomma, se vogliamo. E proprio su questo punto, il pregiudizio del fatto che si stava meglio quando si stava peggio, uno dei primi e più efficaci critici di questo luogo comune fu Ovidio. Certo, perché Ovidio dice sì, vabbè, mi rallegro veramente, mi trovo bene a parlare con lei e con gli ascoltatori di Radio 24. Ovidio dice ma sto semplificando, ma chi se ne frega di guardare indietro, ma io non voglio bere nelle tazze di legno, a me piace bere nelle tazze d'argento, che è l'epoca d'Augusto, l'epoca in cui Ovidio viveva, esattamente 2000 anni or sono. Questo però significa anche, secondo me, una bella sfiolinata al capo del governo d'allora, perché stava dicendo, vai, insomma, a fine conti il passato è passato, tu adesso Augusto governi, io sono il capo del governo, il presidente del Consiglio allora, Augusto Ottaviano, io adesso mi trovo bene con le cose che fai, quindi evviva il presidente del Consiglio. E anche questo, se vogliamo, è un luogo comune di quanto l'intellettuale, lo scrittore alla fine sia sempre abbastanza incline, talvolta inconsapevolmente, al potere costituito. Ecco, lei scrive a un certo punto che i luoghi comuni possono essere anche delle pagine storiche, per esempio dice che le guerre puniche sono un luogo comune della storia antica, cosa vuol dire? Ma sì, perché innanzitutto si insegnano, si dice, è quasi proverbiale, io appartengo ai tempi delle guerre puniche, è un modo di dire, no? Quando uno ha una macchina troppo vecchia dice io ho una 112 targata Cartagine, quindi questo spesso è un modo di dire realmente molto popolare. Le guerre puniche in realtà uno pensa che ci sia dietro l'amore tradito di Didone nei confronti di Enea, no? Questo è quello che ci racconta Virgilio. Le guerre puniche altro non sono che l'ennesima manifestazione di uno Stato che cerca di fagocitare un altro Stato per motivi economici, i motivi economici di Roma nei confronti dello Stato rivale che era Cartagine, che commerciava con la parte sud del Mediterraneo. Quindi il luogo comune letterario è l'antico odio che Didone nutriva per Enea, chi ricorda minimamente l'Eneide ricorda che Didone si uccide perché Enea se ne va, in quanto dice sì, siamo stati insieme, siamo stati bene, ma io ho un alto fine da compiere, gli dei mi hanno detto che dovrò far fondare una città, e va, e quindi i suoi successori fonderanno Roma. Questo è il luogo comune letterario. Il luogo comune reale è quello che muove da sempre l'uomo nei confronti della guerra, purtroppo, sottolineo, purtroppo uno storico non lo dovrebbe fare, ma invece lo sottolineo, è quello che per motivi economici uno Stato va contro un altro Stato e cerca di farlo suo. Poi il suo libro si intreccia con i sentimenti, si parla di odio, di amore, di nostalgia, eccetera. Ecco, come si possono leggere questi sentimenti attraverso i luoghi comuni? È un po' quello che, torniamo all'inizio della nostra piacevole chiacchierata, cioè il luogo comune porta inevitabilmente ad amare tutti nella stessa maniera, cioè quando lei, io, gli ascoltatori di Radio 24, ma non solo, gli ascoltatori che comunque magari ci stanno ascoltando adesso comunque, si innamorano, per esempio, e fanno tutti più o meno le stesse cose, pensiamo non so, alle follie. Ma non soltanto da giovani, attenzione, anzi, io ho più paura del ragazzo di 80 anni che si innamora, prende la macchina, piglia e va e raggiunge, fa 800 km di corsa per andare dalla persona della quale si è innamorato la sera prima. E questi sono luoghi comuni, ecco, però qui do l'accezione positiva, sono luoghi in cui tutti quanti noi ci incontriamo, e quindi incontrandoci tutti quanti in questi luoghi diventano comuni, ma insomma è un bel frequentare, perché in fin dei conti siamo tutti compagni di avventura o di sventura, laddove sia sventura, insomma. Il suo libro è intercalato con dei riferimenti alla musica melodica. A un certo punto si parla di Charles Aznavour e di questa canzone che adesso ascoltiamo. E io tra di voi da solo vedo la pena che cresce in me. Oh no, non è niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare? Al contrario, è stata una magnifica serata. In questa canzone che cosa vuole rappresentare Aznavour? Si parla di una radiografia del tradimento di coppia. Sì, quando sento questa canzone mi viene immediatamente da pensare alla parodia che ne fecero Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, no? Ed io tra di voi, no? La canzone è stupenda, Aznavour la interpretava in una maniera incredibile, e con tutti quei segnali, se vogliamo scivolare da Aznavour verso Lucio Battisti, quando Lucio Battisti e soprattutto Mogol, che salutiamo, diceva un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso, no? E quando praticamente in un gioco a tre, io con la mia compagna, mia moglie, lui che sta corteggiando la mia compagna, mia moglie, sto parlando ovviamente non riferimento a cose personali, io mi accorgo che loro due stanno flirtando, non dico alle mie spalle, pensano che io non me ne accorga sostanzialmente, e quindi io divento il terzo incomodo, cioè io che sarei quello, il titolare del rapporto, divento il terzo incomodo di una coppia che sta nascendo. Aznavour questo lo racconta con, e io tra di voi, in una maniera meravigliosa, quando addirittura finisce, perché loro due, i coniugi regolari, tornano a casa, lei si accorge che forse lui si è accorto e dice: ma che cos'hai, che è successo? No, niente, solo un po' di mal di testa. È stata veramente una bella serata, una magnifica serata, dice Aznavour. Sa perfettamente che sta bleffando, perché si è accorto che esiste una tresca tra sua moglie, la sua compagna e il suo possibile amante dei prossimi giorni. E di fronte a questo è inevitabile che succeda, è inutile mettere i freni, altro luogo comune. Quando una donna o un uomo ha deciso di andare in quella direzione, nella direzione del tradimento, nella direzione della trasgressione, inevitabilmente succederà, è inutile mettere freni. A questo punto è bene che il destino faccia il suo corso, altro luogo comune. Però vedete come questi luoghi comuni in fin dei conti appartengono a tutti, perché chi è che non ha vissuto o visto una storia del genere, quella raccontata da Aznavour? Descrivendo la sontuosa Venezia musicale di Albinoni e di Benedetto Marcello, lei conclude con queste parole: la felicità non ha certezze, forse perché la felicità è tale anche se solo ricercata. Questa è la negazione di un luogo comune, naturalmente. Certo, perché noi a volte non ci accorgiamo che la felicità ci passa accanto. Noi siamo sempre, ecco, questo è un, perché non voglio nemmeno essere preso per un passatista, insomma, non lo guarda sempre indietro. Noi non ci accorgiamo, dopo, quanto ero felice allora. Allora forse è opportuno, siccome io sostengo che la felicità è prima, è nell'attesa, no? Il sabato del villaggio, Leopardi, poi quando arriva la domenica è sempre una gran rottura di balle, questa domenica piovosa, anche se c'è il sole, perché sai che dopo arriverà il lunedì. Allora tanto vale rendersi conto nel momento in cui passa la felicità, e la felicità può essere non soltanto, non so, una giornata di sole, ma può essere una bella storia d'amore, può essere un buon pranzo, può essere l'attesa del domani, cioè aspettare, anche qui, siccome amo molto la cultura pop, posto che secondo me non esiste una cultura alta e una cultura bassa, esiste una cultura punto e basta, c'era un Baglioni d'annata, che non ho ricordato nel libro, che aveva addirittura fatto un disco, se non sbaglio sta in Solo o sta in Piccolo Grande Amore, posso sbagliare perché vado veramente a memoria e a braccio, che si chiamava E aspettare, e tutta la canzone era praticamente E aspettare, E aspettare, E aspettare, E aspettare. E poi facevo una serie di esempi su che cosa poteva attendere. Tra parentesi, questa filosofia dell'attesa in Baglioni è stupendamente descritta in Lampada Osram, una canzone che magari molti nostri ascoltatori non ricorderanno, però invece è una canzone degli anni 70, dove la Lampada Osram era fuori dalla stazione Termini, era un lunghissimo telo altissimo messo lì per le Olimpiadi del 60 e illuminava a giorno tutto il piazzale anche di notte. Lampada Osram di fronte alla stazione, giornali, cartoline, le insegne, le reclame. E c'era questa scritta Osram, non è pubblicità per carità, che praticamente tutti si davano appuntamento alla Osram, e era bellissimo in quelle stagioni degli anni 70 vedere Piazza dei 500 fuori dalla stazione piena di gente che si dava appuntamento. Quindi era l'attesa di un qualche cosa che sarebbe arrivato. Grazie a Umberto Broccoli, autore di Luoghi Comuni. Buona serata. Grazie, buona serata a tutti voi e anche a lei, con il quale ho parlato molto piacevolmente, e non è una captatio benevolentiae, non è un luogo comune. In passione travolgente può trasformarsi naturalmente l'amore, che troviamo in tale veste nell'antologia In un bacio saprai tutto, racconti di passione, curato da Fabiano Massimi e pubblicato da Einaudi, 246 pagine, 16 euro. Questa è una serie di testimonianze letterarie, illustri naturalmente, sul bacio, un gesto apparentemente ovvio ma carico di significati molteplici che spesso lo rendono contraddittorio e ambiguo. Il bacio, infatti, scrive Massimi, può essere mistificatorio, cinico, persino fedifrago, ma in apparenza apparenza rimanere un semplice bacio. Un bacio dato non è mai perduto, ha scritto Italo Svevo, citato da Massimi, ma può sempre andare perduto il suo senso. E qui abbiamo la testimonianza di questa ambiguità attraverso le pagine di tanti autori importanti: Mario Vargas Llosa, Virginia Woolf, Anton Chekhov, Gabriele D'Annunzio, Ernest Hemingway, e poi Ugo Foscolo, Karen Blixen, Guy de Maupassant, Filippo Tommaso Marinetti, Cortázar, Tommaseo, Targhetti, Schnitzler, Catherine Masfield, Francis Scott Fitzgerald, e non sono neanche tutti, che vengono suddivisi in capitoli dedicati al primo bacio, alla forza di un bacio, al bacio rivelatore e all'ultimo bacio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Ci accostiamo adesso a un grande, anzi a tre grandi del Novecento, e cominciamo con Marcel Proust, il quale è protagonista indiretto del libro di Michael Urat, ma possiamo dire anche Uras perché è di origine sarda lo scrittore francese, che si intitola Io e Proust, tradotto da Giacomo Melloni, pubblicato da Volan, 160 pagine, 15 euro. Questo è un romanzo sul rapporto tra il narratore, che qui è un adolescente che sarà segnato dalla lettura di Proust, e appunto l'autore. Quando Jacques Bartel, il nome del protagonista, scopre e legge Proust, la vita ne risulterà trasformata radicalmente. Il rapporto con lo scrittore diventa anzi ossessivo, e il libro segue con umorismo e senza toni caricaturali questa passione quasi insana, che diventa poi un lavoro quando il protagonista intraprende la carriera di ricercatore, che naturalmente metterà al servizio esclusivo degli studi su Proust e che lo porterà anche allo scontro con i suoi colleghi. E sulla scorta del questionario al quale Proust rispose per presentarsi da adolescente, che è un questionario che poi riprese da adulto e che poi è entrato nell'uso quasi corrente, ogni personaggio risponde a un suo personale questionario sul proprio rapporto con Proust. A Proust è dedicato un libro insolito di Eleonora Marangoni, che ha scritto Proust, I colori del tempo, pubblicato da Electa, 122 pagine, 22 euro. I colori, dice l'autrice, sono particolari importanti nell'opera del grande scrittore francese, perché nel romanzo La ricerca del tempo perduto è costante il riferimento alla pittura. Scrive l'autrice: Proust non fotografa, dipinge, i suoi ritratti non fissano dettagli sulla carta, liberano piuttosto essenze nell'aria che lasciano il lettore libero di interpretarle e seguirle dove vuole. E nella prefazione Alessandro Piperno ricorda che Proust afferma che lo stile per lo scrittore non è una questione di tecnica, ma di visione, il che significa che uno scrittore, aggiunge Piperno, non pensa in una lingua come comunemente si crede, uno scrittore pensa per immagini, e difficilmente tale immagini sono in bianco e nero. E qui nel libro, colore per colore, dal giallo al bianco e nero, troviamo una lettura cromatica di Proust attraverso anche alcune immagini che accompagnano l'analisi dell'autrice. Sentiamo per esempio che cosa rappresenta il rosso nelle parole che vi propongo e che nel libro sono accompagnate da uno splendido ritratto del 1918 di Adams, col ritratto di una signora sdraiata e che veste appunto con un rosso squillante. In Proust il rosso è un colore terreno, privo delle connotazioni erotiche del rosa e legato soprattutto all'idea di prestigio e potere. Spesso stupefacente e sempre sicuro di sé, il rosso è la divisa ufficiale dei potenti e di coloro che ci tengono a essere riconosciuti come tali. È un colore che non conosce umiltà né penombra, ma viene esibito in pubblico come un'arma, come prova irrefutabile di ricchezza e valore. In un salottino impero, dove alcuni rari abiti neri ascoltavano, seduti sul divano, si vedeva, accanto a una specchiera sostenuta da una Minerva, una poltrona a sdraio, collocata in posizione rettilinea, ma incurvata all'interno come una culla, dove stava distesa una giovane donna. La posa languida, che nemmeno l'ingresso della duchessa la indusse a scomporre, contrastava con la meravigliosa lucentezza del vestito impero di seta scarlatta, di fronte al quale i fucsia più accesi sarebbero impalliditi e sul cui tessuto madreperlaceo sembrava fossero stati calcati a lungo fregi e fiori, perché ve n'era rimasta l'impronta e l'incavo. Ignoro se fosse a causa di una malattia di stomaco, di nervi, di una flebite, di un parto prossimo, recente o mancato, che ascoltava la musica standosene sdraiata e senza muoversi per nessuno. Il motivo più probabile è che, orgogliosa del suo bel vestito di seta rossa, pensava di fare sulla poltrona a sdraio un effetto alla Madame Récamier. Siamo alla matinée del tempo ritrovato e la signorina in questione è la nipote di Madame de Saint-Euvert, una marchesa che organizza ricevimenti e serate galanti con l'ambizione di ricevere in casa sua le tout Paris. Ma le sue reception vengono spesso snobbate dai nobili veri e propri. La posa della fanciulla in questione è senz'altro ridicola e il salotto di sua zia, un'etichetta sbiadita sotto la quale la presenza dei più grandi artisti, dei ministri più influenti, non avrebbe attirato nessuno. Eppure, la maestosità di quel colore sembra in grado di restituire un po' di dignità al nome scolorito dei Saint-Euvert. A un certo punto, nell'introduzione di questo libro, Eleonora Marangoni sottolinea la rottura sconvolgente che Proust effettua nei confronti dello stile narrativo tradizionale. Nella Recherche scrive: quasi impossibile imbattersi in ritratti fisici degni di questo nome, le descrizioni non sono mai esaurienti, molti dettagli sono del tutto assenti e tutto quello che sappiamo sull'aspetto dei personaggi ce lo guadagniamo poco alla volta qui e là. Tutto il contrario di quello che ha fatto un altro grandissimo della narrativa francese, Honoré de Balzac, che invece era, scrive sempre l'autrice, maestro delle descrizioni fisiche di lombrosiana minuzia e irresistibile pedanteria. Se ne volete una conferma, potete leggere il terzo volume del suo ciclo monumentale, La Commedia Umana, che è stata presentata in una scelta dei romanzi più significativi da Mariolina Bongiovanni Bertini. Questo terzo volume racchiude alcuni titoli celebri e altri meno, è pubblicato come i due precedenti da Mondadori, 1576 pagine, 60 euro. È comunque una scelta che riesce a darci il senso straordinario di Balzac nel descrivere il suo mondo e di creare una galleria di personaggi indimenticabili. Contemporaneo e quasi coetaneo di Proust è un grande poeta, Rainer Maria Rilke. Proust era del 71, Rilke del 75, Proust morì nel 22, Rilke nel 26. Un austriaco di origine boema, il poeta, di cui Ibis ripropone 5 racconti giovanili con il titolo Il Segreto, 74 pagine, 7 euro, curato da Anna Ruscià. Questo volume inaugura un'iniziativa editoriale di Ibis che pubblicherà annualmente i racconti di Rilke. Questi giovanili, presentati in questo primo volume, furono per la verità rinnegati dal poeta, come sottolinea la stessa curatrice. Si riconosce qui infatti una prosa timida e incerta, non di rado manierata. Eppure, aggiunge Anna Ruscià, non mancano tracce di quello che sarà il Rilke più maturo. Il distacco e l'ironia nella malinconia, in Nuce sono anche già presenti i temi fondamentali della poetica rilchiana: l'amore per gli umili, gli oppressi, i falliti, gli infelici e poi la morte, l'amore fugace e l'infanzia. Infine vi propongo uno scrittore quasi a noi contemporaneo, anch'egli un grandissimo del Novecento, Mikhail Bulgakov, di cui Marietta Chudakova pubblica la biografia che si intitola semplicemente Mikhail Bulgakov, cronaca di una vita, pubblicato da Odoia, tradotto da Claudia Zonghetti, 478 pagine, 30 euro. Un'opera imperdibile, questa, per i tanti appassionati dell'autore del Maestro e Margherita. L'autrice è una grande studiosa di Bulgakov, nonché presidente della fondazione che porta il nome dello scrittore, e qui aggiorna un'opera che era stata già pubblicata nel 1988. Si parte nel libro dal destino dello scrittore, un destino sfortunato perché fu scoperto solo molto tardi. Il suo capolavoro, Il Maestro e Margherita, era rimasto infatti, come ricorda l'autrice, nel cassetto dell'autore per oltre un quarto di secolo dopo la sua morte, che avvenne nel 1940. Dunque, aggiunge l'autrice, uno scrittore sovietico che viveva in Unione Sovietica aveva scritto pagine meravigliose che però non erano state pubblicate per qualche decennio. La parola censura, conclude, solitamente impronunciabile, prendeva corpo e i suoi divieti risultavano palesi. E qui troviamo molti particolari e molte sorprese sui rapporti tra Bulgakov e il regime staliniano, che non furono certo facili. Nell'ambito di questo rapporto vennero costruite molte leggende, per esempio quella secondo la quale Stalin volesse aiutare Bulgakov ma che fosse stato contrastato da critici ebrei. Stalin comunque effettivamente fu molto attento a Bulgakov, aveva assistito ad almeno 15 repliche, pare, di un testo teatrale dell'autore, e nel 30 gli aveva telefonato personalmente per chiedergli perché volesse andare via dall'URSS, annunciandogli di volere incontrarlo, un incontro che non ebbe luogo e una telefonata che diede vita alla famosa aneddoto su Bulgakov, che avrebbe detto che uno scrittore russo non può mai lasciare la Russia. Nel libro viene dunque ricostruita la vita di Bulgakov, in particolare colpiscono gli anni di Kiev, per parlare di una città che è diventata molto popolare in quest'ultimo periodo. Proprio a Kiev Bulgakov era nato nel 1891. Qui aveva assistito a decine di convulsioni politiche, di cui troviamo anche un eco in uno dei suoi primi libri. E a questo punto... Il confettino. In onore della nazionalità di Bulgakov ricordo un classico di Lev Tolstoi, i quattro libri di lettura riproposti con la traduzione di Agostino Villa e con le illustrazioni di Alice Beniero. Questa è una raccolta scritta tra il 1870 e il 1875 in cui Tolstoi raccolse alcune piccole storie spesso rielaborate da lui stesso su quanto gli raccontavano i figli dei suoi contadini. Non ci sono soltanto favole e leggende, ma anche considerazioni su fenomeni scientifici e naturali. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, e Carmelo Auricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento la settimana prossima.